vestita di nuovo, c'è la pelle di un vecchio serpente, appena uscita da un uovo, e c'è un forte rumore di niente. C'è un forte rumore di niente. Bene, allora ci siamo goduti questa soluzione, dialogo tra due intellettuali intorno a Giulio Andreotti, Tommaso Buscetta e altri boss della mafia, scritto e interpretato da Gianluca Riggi e Roberta Castelluzzo. Intanto complimenti. Grazie. Grazie. Aspetta, alza un po'. Grazie. No, non ti sento. Ho sbagliato il microfono. Pronto? È acceso? Sì. Adesso sì. Ok. Okay. Grazie. Grazie, ciao. Mi dispiace che abbiamo dovuto fare con un microfono solo, un po' l'audio era a volte un po' più basso, a volte un po' più alto, però comunque. Allora, dicevi, sono due anni che lo portate in scena, come è nato lo scritto? Beh, è nato... Scritto poco, perché in realtà l'hanno scritto altri. Purtroppo l'hanno scritto altri, diciamo. Siamo stati in mano... con queste carte dei processi per un po' di tempo, e devo dire la verità che la tentazione era quella di scrivere un testo teatrale, però poi non ci riuscivo a scrivere un testo teatrale perché le cose che erano scritte negli atti processuali erano troppo più divertenti e troppo più straordinarie rispetto a quello che io ero in grado di scrivere, cioè la mia fantasia non riuscivo a superarli, e quindi poi alla fine abbiamo fatto un tentativo, una prova, facemmo una prova campione a Modena, in cui io e Roberta pensammo, vediamo che succede, andiamo sul palcoscenico senza aver preparato nulla, semplicemente con questi pezzi di carta del processo, abbiamo preso una persona dello spettatore, tra gli spettatori, che poi l'abbiamo deciso proprio 5 minuti prima di entrare sul palcoscenico, abbiamo detto, beh, prendiamo uno. E abbiamo preso una signora, una ragazza, l'abbiamo messa sul palcoscenico, che era anche una abbastanza cagacazzi, e l'abbiamo messa su questo palcoscenico e abbiamo incominciato a raccontare questa storia, e abbiamo visto che funzionava, e quindi poi da lì ci abbiamo rilavorato sopra, siamo arrivati per lo spettacolo, insomma. In tutti gli spettacoli chiaramente coinvolgete una persona del pubblico. Sì, coinvolgiamo... Tipo interrogatorio. Facciamo un interrogatorio, cioè il dialogo tra i due intellettuali, appunto tra me e l'altro intellettuale, dovrebbe essere la persona che viene invitata tra gli spettatori a stare seduta sul palcoscenico, insomma, e a rispondere. Poi capita a volte degli spettatori molto interessanti che hanno anche loro delle storie da raccontare, e quindi poi gliele facciamo anche raccontare, sì. Oppure a volte sono molto giovani, come nel caso di Simone, che non sa niente e quindi poi gli devi spiegare tutto, e anche quello dà un certo sapore poi allo spettacolo, insomma. Roberta, si è evoluto nel tempo lo spettacolo, e poi che riscontri avete avuto? Si è evoluto anche perché riuscire a leggere tutto è complicatissimo. Allora, di tanto in tanto, proprio mentre stiamo facendo lo spettacolo, viene fuori quel pezzetto, quella pagina che non avevamo letto, quella parte interessante, buffa, eccetera, e quindi ci piace continuare a improvvisare, è la cosa che ci diverte di più. Prossimamente? Prossimamente ancora non abbiamo programmato, non sappiamo bene che cosa faremo, però sicuramente... Questo spettacolo intanto lo riporterete in scena? Sì, sicuramente lo riporteremo in scena, anche perché insomma è un format che ci piace, e ci piace anche poi poterlo... Nel senso morale, no? Magari sì. Tutti potessero sapere queste cose, anzi magari qualcuno ha voglia di andarsi a leggere le sentenze, da poco sono pubbliche, non c'è più nessun tipo di censura, possono, chiunque può andarsene a cercare e leggersele. Bene, allora intanto se vi fa piacere, sempre questo, non so se ne abbiamo parlato, la stiamo registrando, poi la possiamo pubblicare sul sito, e chi vuole, chi l'ha persa e la vuole riascoltare potrà farlo. E poi in bocca al lupo per le prossime cose, e vi chiedo, se sempre per chi è interessato, eventuali contatti. Beh, è semplice, potete venire sul contatto del Teatro Furio Camillo, che è www.teatrofuriocamillo.it, e lì grosso modo siete sempre aggiornati su quelle che sono le nostre iniziative, sia come teatro che come compagnia. Allora, un abbraccio, grazie ancora di essere stati qui. Ringraziamo Simone pure. Anche sì.